Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qui allora, Blu Radio Veneto, con voi questa sera Gilles e Maurizio. E abbiamo voluto iniziare così, in una maniera diversa questa sera, per farvi già capire di cosa parliamo. Maurizio. Sì, parliamo del nuovo disco di Daniele Ronda, la title track. È un disco molto particolare, particolare nel senso positivo del termine rispetto al grande successo del disco precedente. È una evoluzione, secondo me. Sei d'accordo, Daniele? Sei al microfono? Sì, ciao, buonasera. Ciao, ciao Daniele, benvenuto. Al microfono, al telefono, grazie mille, più che al microfono. Grazie mille, guarda, ho sentito su, è un'evoluzione, ovviamente sono dei passi in più in un percorso, però credo che i due dischi abbiano comunque un forte collegamento. Ovviamente sono stati realizzati non distantissimi l'uno dall'altro, cioè un anno esatto, perché il primo album usciva il 25 di novembre del 2011, questo è uscito il 25 novembre del 2012, viceversa. Sì. Però hanno tanti punti in comune. Ovviamente c'è la differenza, ci sono stati in mezzo più di 100 concerti dal vivo, ci sono stati in mezzo chilometri e chilometri percorsi insieme anche al folk club, alla band, e ci sono state persone incontrate, posti visitati, esperienze vissute, soddisfazioni, litigate, cose belle capitate, insomma c'è dentro tanta di questa roba, insomma, che è successa in questo periodo, che pur essendo un anno però è stato molto molto intenso, di belle cose anche. È il grande successo del disco precedente che ha allargato notevolissimamente l'audience, secondo me. Sì, assolutamente sì, è un disco che, ma infatti continuiamo assolutamente a strasuonare dal vivo e credo che ce lo porteremo dietro, insomma, per molto molto molto molto tempo, insomma, perché io comunque rimango, non sono di quelli che dice, insomma, è uscito il disco nuovo, insomma, cioè rimango molto legato a tutti anche ai lavori precedenti. Perché? Perché rinnegare il passato è come rinnegare un po' una parte di se stessi, non solo rinnegarlo, perché poi in questo caso sono soddisfazioni grandissime, quindi sarebbe una cosa sbagliatissima, però anche solo non tenerlo in considerazione, quanto merita di essere tenuto in considerazione. Quindi questo primo disco da parte in folk ci ha dato tanto, ha messo anche delle basi importanti che ci hanno permesso di suonare tanto e che ci permettono ancora di suonare tantissimo, e quella è veramente dove traiamo, insomma, la forza, insomma, dove permettiamo, dove possiamo far conoscere il nostro progetto, dove parliamo alle persone, dove comunichiamo alla gente, insomma, ecco. E proprio di questo dobbiamo fare conoscere anche Daniele Ronda e i suoi Folk Club, perché è un gruppo anche importante. Introduciamo anche un attimo questo gruppo, questi Folk Club. Guarda, il Folk Club è un difficile chiamarlo gruppo, perché ha tutto un suo schema particolare, nel senso che la base è fatta da me, chitarra, voce, pianoforte, insomma, però poi c'è Sandro Alario alla fisarmonica, Carlo Raviola al basso e Lorenzo Arese alla batteria. Questo, diciamo, è il quartetto base del Folk Club. Poi il Folk Club in realtà è qualcosa di più aperto, è un laboratorio proprio, quasi, è un insieme di persone, è un club vero e proprio di persone che sono unite, sono tenute insieme, sono richiamate da una passione comune, che è per la musica folk. Infatti spesso si aggiungono delle corde come il banjo, la chitarra elettrica, si aggiunge la tromba, si aggiunge il violino, si aggiunge la cornamusa. Al grande evento che abbiamo fatto al Palazzetto dello Sport di Piacenza, al Palabanca di Piacenza, il 1° dicembre, c'era addirittura l'orchestra d'archi. Quindi poi ne parliamo di questo. Sì, è un vero e proprio laboratorio aperto, capito? Ci divertiamo. Questa cosa è una cosa molto stimolante, una cosa che ti fa ricercare molto, che ti fa ti tiene sempre molto molto vivo dal punto di vista degli stimoli e della voglia e del divertimento, insomma, dello stare bene sul palco. Certo. Daniele, tanto per fare una brevissima storia, tanto da inserire anche per chi magari appunto non conosce ancora Daniele Ronda, ma non mancherà tantissimo tempo. Parliamo di quando in pratica tu da Piacenza, perché diciamo che sei piacentino puro sangue, a un certo punto raggiungi Milano per cercare qualcosa in più a livello anche musicale. Sì, guarda, Piacenza non è una grande città, anzi è una piccola città, e quando avevo 19-20 anni, sinceramente, adesso sono 29, non che ne abbia 80, però insomma, e quando avevo 19-20 anni, ho finito la scuola, avevo iniziato veramente a potermi dedicare al mio lavoro, insomma, dalla mattina alla sera. E a un certo punto mi sembrava che questa realtà di questa piccola città mi potesse star stretta, mi sembrava di dover rincorrere quel sogno della metropoli, no? Quella metropoli che può offrire tutto quello che insomma stiamo cercando. Quindi presi veramente insomma la mia attrezzatura, i miei strumenti, mi spostai a Milano per un periodo. Ed ero molto contento, insomma andavo là dicendo adesso qua chissà cosa succede, poi mi rendevo conto che non vedevo l'ora che arrivasse il venerdì sera per tornare a casa, perché mi mancavano le strade, mi mancava la gente, mi mancavano proprio gli odori, la nebbia, che comunque è diverso da quella, la Piacenza Milano cambia la nebbia, in ogni posto la nebbia ha un suo sapore, un suo colore particolare. E niente, mi sono reso conto di essere più affezionato di quanto credessi a casa mia, alla mia terra e alle mie origini. Infatti ho deciso di tornarci e da lì prendo molta forza, ho capito che è un punto di forza, ho capito che le radici sono un punto di forza, che non ti tengono ancorato da dove sei partito, anzi ti danno tutto un nutrimento per poterti muovere. Poi non è detto che tu trascorrerai la tua vita per forza dove sei nato, dove sei cresciuto, però è bello averlo come riferimento ed è importante che sia un valore di riferimento. Questa cosa a me dà molto, a me serve tanto. E poi ne parleremo appunto anche di questo, proprio dell'importanza che dai tu alle tue radici. Ma il folk, dicevi giustamente una cosa, è un laboratorio aperto, si suona, si improvvisa apertamente senza nessuna barriera, Daniele. Sì, in realtà non, veramente non ci sono barriere, nel senso che io poi ho un modo particolare di viverlo. Allora, innanzitutto il folk, molti non hanno una visione del folk proprio realistica, nel senso che il folk è un genere che nella sua semplicità ha una ricchezza enorme, ha veramente delle sfaccettature, dei colori, delle sfaccettature, delle sfumature che sono veramente tantissime, sono infinite. Basti pensare che ogni 10 chilometri come cambiano gli accenti dei dialetti, come cambiano gli ingredienti della cucina tipica, cambia anche un po' il folk, quindi è veramente molto vario. E molti hanno il dubbio, che invece abbia degli schemi, ma questi schemi sono una base, sono la tradizione, sono la storia del folk. Poi in realtà io me lo riadomestico degli strumenti che fanno parte anche di questo genere, riadomestico dei suoni perché li vivo nel mio tempo, nella mia epoca, e li vivo alla mia età, e questo per me è fondamentale. Ecco Daniele, allora io direi a questo punto di fare una parentesi proprio di questo tuo primo album, Da parte in folk. E poi magari spenderemo anche qualche parola in più prima di passare al tuo ultimo CD. Noi avevamo pensato di fare ascoltare La Neve Sul, spero di pronunciarlo bene. La Neve Sul, sì, sei stato bravo. Grazie. Vogliamo spendere due parole su questa canzone? Guarda, è un pezzo appunto, come qualcuno avrà capito, è in dialetto piacentino. È un pezzo, pensa che questa è la traccia 1 proprio del primo album, e è un pezzo che è l'unico pezzo che io ho scritto in dialetto, non è l'unico che ho scritto in dialetto, ma è l'unico che ho anche, del quale esiste anche una versione in italiano. Molti mi dicono: perché non fai di tutti i pezzi in dialetto anche una versione in italiano? In realtà perché in questo caso c'è stata una necessità, un'esigenza mia, però non è così automatico il collegamento della traduzione. Spesso ci sono delle cose che vanno dette in dialetto, che sento di dover dire in dialetto, che sento efficaci, forti, giuste dette in dialetto, e quindi non è così automatico che ci decida di tradurre. Ecco, allora ascoltiamoci questa canzone e capirete perché c'è tanto fascino nella lingua piacentina cantata da Daniele Ronda. Sono Vetter e con ans la terra che m'aspetta a me, ma culti le ho sbagliate, am su un buteidre ed ho vista il sul e t'ho vista te. acqua te sul mondo, su ron quel caram, ron quel caram, ron quel caram. Eccoci qua, eccoci qua. Cose, Daniele, le sono le evoluzioni, sì, moderne. Qualche volta uno vuole correre, vuole correre. È quello, è per quello che bisogna prendere molto dalla nostra, esatto, storia, bisogna dalla prendere nostra tradizione. Musicalmente, perché hai fatto questo arrangiamento molto bello, molto significativo, molto popolare? Perché, guarda, questo pezzo è nato quasi piano voce, devo dire la verità. Inizialmente questo riff iniziale era fatto col piano, poi mi è venuto quasi naturale che diventasse con la fisarmonica, e poi ho deciso, ancora per renderlo ancora più, per dargli ancora più quel senso, quel sapore, quel significato, come dici tu, popolare, ma dal punto di vista di, sì, l'odore della terra, di terra proprio, l'odore della terra proprio, si sente questo. Il mandolino mescolato alla fisarmonica credo che dia molto questo riferimento, insomma, quindi nasce un po' così questa sonorità. E dal vivo come lo fai? Lo fai, lo ampli rispetto al disco originale? Dai qualche colorazione diversa o ti attiri? Guarda, dal vivo abbiamo, come ti dicevo, diverse situazioni, nel senso che quindi si rigioca anche con gli arrangiamenti. In realtà la situazione base penso che è molto essenziale, perché siamo in quattro, basso, batteria, fisarmonica, io la chitarra. Perfetto. E quindi da un certo punto di vista abbiamo studiato dei metodi, dei modi di rendere anche le canzoni in maniera così, in quattro, quindi in maniera veramente selezionando le parti, veramente incastrando le parti essenziali, che secondo me hanno dato una sonorità molto particolare dal vivo. E quando sei stato a Parigi, quando sei stato convocato dalla comunità piacentina di Parigi, come l'hai eseguito questo pezzo? Qui era l'abbiamo fatto nella maniera più essenziale che ci fosse, eravamo io la chitarra e poi c'era Sandro la fisarmonica, e l'abbiamo fatto noi due così. Guarda, Parigi è stata un'esperienza bellissima, è stata, ci hanno chiamato dalla comunità italiana, sì, la comunità piacentina, dire il vero, sì, di proprio che è Parigi, che è una grande comunità, una comunità molto attiva, e è una comunità che ha una storia abbastanza, insomma, di tanti decenni. C'erano da veramente dagli originali, insomma, dai primi immigrati fino ai figli e nipoti, insomma, e quando alla fine, dopo il concerto, mi hanno detto, guarda, che avevano sentito come un ponte con casa loro, con la loro terra, insomma, è stato un bellissimo complimento. È gente che l'ha dovuta strappare le radici, ma che non si dimentica di casa, che è uno di quei casi dove sono dovuti andare via, il loro futuro, la loro vita l'hanno costruita via, ma il cordone con questa, con la loro terra, gli dà una spinta, gli dà una forza importante, me lo confidavano anche loro, nel senso, quindi è uno di quei casi dove ci rimani comunque legato alla tua terra, forse proprio anche perché l'hai dovuta lasciare, questo sentimento è ancora più forte, più accentuato. Daniele, spesso ti accompagni a Sandro Allario o mi sbaglio? Sì, assolutamente sì, sai, è uno dei pilastri importanti del folk club, poi la fisarmonica, come avrete sentito anche nel disco, ha un ruolo importante. Certo. Sai cosa c'è che mi rende orgoglioso? Che col gruppo si è formato anche un rapporto umano bellissimo, siamo degli zingari, siamo sempre in giro, viaggiamo, ma è veramente diventato un po' una grande famiglia, un appendice della famiglia, insomma, è diventato una grande, più che un appendice, è diventata proprio una parte in più di della famiglia di origine di ognuno, quindi il gruppo nel gruppo ci si ritrova, e questa cosa la sentiamo credo anche poi quando suoniamo, perché siamo veramente affiatati, ci capiamo, quando si dice ci capiamo guardandoci o con un piccolo cenno del viso, insomma, capiamo che magari, poi sai cosa, io ho un'idea molto libera dello show, nel senso che può essere che aumenti, cambi la velocità del pezzo, può essere che cambi la stesura, può essere che aggiunga una parte, e con loro è possibile farlo perché ci capiamo, capito? Perché basta che gli faccia un cenno e ci conosciamo, e capiscono che magari voglio raddoppiare il riff, voglio aumentare il ritornello, ripetere parte strumentale, o ripetere, insomma, una parte, insomma, della canzone, o rallentarlo, velocizzarlo, oppure asciugarlo di arrangiamento, o rinforzare, insomma, ci capiamo veramente guardandoci un attimo. E questo gruppo, perché tu parli proprio veramente come in maniera molto forte di questo gruppo, e si è formato subito dal primo momento oppure c'è stato qualche inserimento? In realtà, guarda, i pilastri importanti sono Sandro Alario, come ti dicevo, e Carlo Raviola al basso, e loro c'erano veramente dall'inizio, c'erano veramente quando da subito, non si sospettava che avrebbe potuto accadere quello che sta accadendo, che sono soddisfazioni bellissime. Ci hanno creduto veramente quando, non che adesso insomma siamo diventati di ricchi, però ci hanno creduto veramente quando andare in giro a suonare, non dico che c'era da spenderne, ma poco ci mancava, insomma. Quindi, ed è una cosa importante, perché quando le cose vanno bene, in un certo senso, quando le cose girano bene, quando si hanno delle soddisfazioni, capisci che anche loro, insomma, si ricordano, insomma, anche dei sacrifici che abbiamo vissuto, che sono stati sacrifici belli anche, perché sono stati sacrifici che hanno visto crescere un progetto, insomma, però comunque sacrifici, persone che hanno creduto in questo progetto e che adesso ne fanno parte. Anche per questo che ci tengo sempre a parlare di loro proprio da gruppo, proprio da, certo. Perché comunque c'erano quando è nato il progetto e l'hanno costruito insieme a me. Quindi il folk come sonorità è partito da subito? Sì, è partito da subito, insomma, è partito da subito perché era un'esigenza, perché guarda, la musica va, io ho lavorato in tanti generi musicali, questa cosa mi è servita molto, mi ha stimolato molto e mi ha fatto ricercare molto. E poi ho sentito, la musica va di pari passo con la mia vita, perché è una parte troppo importante della mia vita, quindi troppo importante, nel senso, è veramente parte fondamentale, quindi quello che il percorso che faccio nella vita in qualche modo si rispecchia, si riflette nel mio percorso musicale. E lo scoprire di amare la propria terra, lo scoprire questo legame con le origini ha dato un grande contributo al fatto che io decidessi di vestire anche la mia musica di folk, perché il folk parla anche di tutte queste cose qua in maniera intrinseca, insomma, ai suoi suoni, al suo proprio suonare. Il folk chiaramente è legatissimo al dialetto e tu hai vinto un premio molto importante, sì. Il premio MEI nel settembre del 2012 come progetto musicale sul dialetto come disco dell'anno. È un disco veramente fondamentale, un premio fondamentale. MEI, si sa che è una vetrina strepitosa. Sì, assolutamente sì, è stata una cosa, anche questa una grande sorpresa, non ce l'aspettavamo. Mi hanno telefonato un giorno e mi hanno detto di venire a Faenza a ritirare il premio, e questa cosa mi ha stupito, inorgoglito molto, perché vuol dire che c'è un'attenzione anche su questa cosa qua, e avevo capito che c'era un'attenzione da parte delle persone, perché me lo dicono, me lo fanno capire, mi fanno capire che sono valori che stanno riscoprendo e che vogliono dire, e che il dialetto comunque vuol dire cultura. Quando iniziano delle associazioni anche importanti a premiare il dialetto, vuol dire che è chiaro, insomma, che il dialetto sta diventando una forma culturale, insomma, è una cosa da salvaguardare, una cosa da tramandare e da non dimenticare assolutamente, anzi da sviluppare, da far conoscere. Allora terminiamo, Daniele, questo piccolo escursus sull'album precedente e sentiamo Cara, poi ne parliamo, prima l'ascoltiamo, cosa dici? Perfetto. Che ti costa farmi un po' di male, darmi una ragione che ti faccia odiare un po', prova a non pensare, libera l'istinto, sono io il bersaglio, sono il bastardo. Puoi sputarmi addosso tutto il tuo rancore, tutte le parole che non riesci a dire, studia una vendetta, metti a punto un piano, ma non torturarmi più col tuo perdono. Wow, cara, io sono stato una merda, nutrendomi del tuo amore sbagliato, ridando in cambio soltanto la finta parvenza. lasciando crescere per poi spezzare in assoluto la cosa più bella che si possa dare. Non c'è una ruota che gira, un giudizio divino, c'è soltanto un senso di colpa meschino. E poi c'è il sorriso che ti ho cancellato e il tuo cuore in mano ferito e strappato. Oh cara, io sono stato una merda, nutrendomi del tuo amore sbagliato, ridando in cambio soltanto la finta parvenza di un uomo. Cara, sì, sono stato una merda, lasciando crescere per poi spezzare in assoluto la cosa più bella che si possa dare. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, Rock Wave, l'onda del rock. Sì. Qui Daniele ci ha dato dentro. Esattamente, questo è proprio per antonomasia da parte in fuori, questo è per antonomasia Daniele secondo me, è proprio l'immagine, è il manifesto del... Perché dici così? Perché musicalmente, penso, musicalmente lo vedo proprio come il manifesto del disco, musicalmente parlando. Sì, forse questo è che Cenerentola. Esatto. Può aver... Anche Cenerentola. Anche Cenerentola, sì. Sì, penso, racconto delle cose che sento, racconto delle cose che vivo, racconto delle cose che mi passano talmente vicino e mi fa sentire la necessità di parlarne. E questa è una di quelle, non molti si scandalizzavano, no, per la parola, ma tante volte la diciamo al giorno, insomma. Sì, ecco, c'è. No, è realtà, è verità anche questa qua, insomma, quindi sì, è un pezzo che tra l'altro ci dà delle soddisfazioni enormi, nel senso, perché molti, insomma, che si sono sentiti feriti, sono sentiti trattati ingiustamente, insomma, mi dicono, è un po' diventato un po' il nostro inno, è un po' diventato un po', ci ti ha rappresentati da queste cose, quindi insomma, fa parte anche della vita. Volevo ricordare nel frattempo che siete all'ascolto di Blu Radio Veneto, e se volete interagire con noi e di conseguenza con Daniele Ronda, sulla pagina Facebook Blu Radio Veneto Rockway potete messaggiarci tranquillamente, come ti porto i saluti e i complimenti anche di un nostro ascoltatore che si chiama Diego, che ci sta ascoltando dalla provincia di Padova ed è sintonizzato con noi appunto per ascoltare il folk di Daniele Ronda. Vabbè, con questo brano noi abbiamo chiuso la parentesi di Da Parte in Folk e ne apriamo un'altra, Maurizio. Sì. Certo, apriamo del disco nuovo, Daniele, un disco... Sì. Che praticamente si è sviluppato, si è creato, come tu hai detto, dopo la grande visibilità anche dal punto di vista dei concerti del disco precedente, e che prosegue il disco precedente, però lo amplia, secondo me, lo evidenzia meglio, forse in alcuni momenti. Diciamo che c'è un bel viaggio in questo disco qua, perché c'è il folk visto dal punto di vista emiliano, ovviamente non può mancare, perché è la mia terra, però c'è il folk visto dal punto di vista dell'Irlanda, c'è il folk visto dal punto di vista dell'America, quindi un po' più vicino anche al country, c'è il folk più anche visto dal sud dell'Italia, insomma, Tra l'altro su questa, sulle ritmiche, insomma, del meridione della nostra terra sto ricercando parecchio, quindi le utilizzerò, insomma, anche più avanti, però anche in altri, insomma, andando avanti col progetto. Però è un disco Biggie, quindi che è un grande viaggio, è un viaggio non solo però sonoro, è un viaggio anche di cose che mi sono accadute, è un viaggio anche di proprio di percorso, di vita, quindi è un disco che sento veramente molto, a parte che anche quello scorso, perché sono un po' come dei figli, no? Sono molto affezionato, ma fatico molto quando si fa la domanda qual è il pezzo cui sei più legato, è difficilissimo rispondere a quella domanda lì, perché poi va molto anche un po' a periodi, no? Quando vivi un periodo in qualche modo si ricollega di più a quando è nata la canzone, a quello di cui parla la canzone, è ovvio che magari la senti in modo particolare, però sono veramente come figli, quindi insomma è veramente difficile fare una scelta. Sì, perché i pezzi sono tutti amati, nonostante sono tutti amati dal primo all'ultimo, si possono suonare di meno, si possono suonare di più, però sono tuoi, esattamente, tante cose, però non significa che io ami meno, anzi, no. spesso ci sono alcuni pezzi che non dal vivo mi chiedo anche il perché, nel senso che sono veramente un concomitante, si incastrano, magari sono dei pezzi che dal vivo abbiamo suonato un po' meno, ma assolutamente esatto, non sono quelli a cui sono meno legato, anzi spesso sono pezzi a cui sono veramente... Non fai come De Gregori, che non riusciva più a suonare quello, il primo pezzo dall'album, il famoso primo pezzo di Alice, non lo suonava più perché non riusciva più a suonarlo, anche se la gente lo chiedeva a continuazione. No, assolutamente no, a me non capita. Beh, ovvio, De Gregori ha qualche decina d'anni. Sì, certo, ha molti album alle spalle, però... Quindi, però mi auguro che non succeda per te. No, perché veramente sarebbe... Ma sì, però capita spesso, insomma, ci sono grandi artisti che hanno magari la canzone proprio che si portano dietro, che è il loro marchio, diciamo, e quindi posso... che loro subentrano un po' quell'odio amore. Però, insomma, no, io... Davvero, un momento non mi è capitato, insomma, però ti ripeto, questi hanno dietro veramente qualche anno in più di averlo suonato, era il loro pezzo di punta. Quindi. Parliamo del primo dicembre 2012? Sì, che giornatona è stata. Era il primo dicembre, abbiamo fatto un grande concerto dove abbiamo presentato proprio il disco della Sirena del Po al Palazzetto dello Sport di Piacenza, al Palabanca di Piacenza. Ci sono stati più di 3.000 persone, più di 3.000 paganti che sono venuti ad ascoltarci. Era un concerto che abbiamo preparato per 3-4 mesi addirittura, insomma, in maniera veramente molto serrata. E in queste sere qui, dove fai uno spettacolo anche così, tra virgolette, complesso, ma dal punto di vista dell'organizzazione, ma anche molto articolato, perché era uno spettacolo molto articolato, con anche ospiti, con anche circostanze particolari, comunque uno spettacolo che abbiamo veramente strutturato. Sì. Dove il fatto che fili molto tutto liscio, insomma, c'è da sperarlo, perché ci sono veramente tante varianti che si devono incastrare, tante cose che devono scorrere fluide fra di loro, e quella sera lì, come quasi per magia, insomma, tutto è veramente andato bene, quindi è una di quelle serate che ci ricorderemo, insomma, che ci portiamo dentro, che ci ha segnato in maniera positiva, in maniera bella. Che è un concerto poi che tu hai dedicato a una grande artista piacentina. Sì, che è scomparsa quest'anno. C'è stato un pezzo che io dedico sempre a un ragazzo che ci ha lasciato per un incidente automobilistico, che si chiama Il Vento. Quella sera l'ho dedicato ovviamente a Stefano, l'ho dedicato alla persona a cui ero dedicato quando è nato, e l'ho dedicato anche a Gianna Casella, che è cantante piacentina, insomma, proprio della tradizione. Mi è sembrato giusto, insomma, visto che era un concerto proprio per Piacenza, per la città, certo. Non che ci fossero, anzi c'era molta gente che veniva da fuori, però è nato proprio nella città, è nato anche dalla città questo concerto, e quindi insomma aveva un significato anche questo gesto particolare per me, quindi ci ho tenuto, nel senso, era un concerto dove si cantava anche in dialetto, in dialetto piacentino, ovviamente le mie canzoni in dialetto, e era un concerto che parlava in dialetto, ma sotto tanti punti, ma parlava non solo il dialetto piacentino, parlava di terra, quindi parlava i dialetti da un certo punto di vista, ovviamente il piacentino, ma lo cantavamo anche, però veramente era un concerto di c'erano tantissime motivazioni, che aveva questo significato. Certo, anche Stefano, ho letto che ti ha detto la gavetta è anche fatta di momenti amari, ti ha dato una grossa mano, ti diceva vai avanti. Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, guarda, sono momenti... guarda, ti dirò una cosa, quando è partito questo progetto noi l'abbiamo vissuto in maniera molto quasi... Non dico irresponsabile, però quasi senza timori, nel senso che veramente ci siamo detti facciamo quello che sentiamo di dover fare, non è un modo di dire, abbiamo veramente presa così. Poi è partita e le responsabilità sono per fortuna cresciute, perché le persone si aspettavano, avevano voglia di sentirsi, aspettavano un disco nuovo, avevano voglia di sentire un disco nuovo, e questa è una grande fortuna, ma ti dà delle responsabilità. E quindi si ripercorre, spesso mi passa ancora davanti, secondo me quando dicono ti passa davanti un po' tutto il percorso, mi capita spesso ed è una cosa che è importante perché per me, perché ci tiene sempre attenti alle necessità non solo nostre ma anche di chi ha iniziato a seguirci, sono per noi importanti, si è formata una comunità, si è formata una grande famiglia, un gruppo di persone che sono anche spesso amiche. E quindi ne teniamo conto assolutamente. Poi sai cosa c'è? Noi viviamo una realtà molto particolare, perché a Piacenza siamo un grande palazzetto con 3.000 persone, magari a Bergamo facciamo anche un grande teatro, magari dove sono. Poi magari ci sono città dove magari non ci conoscono così tanto come in queste, e quindi magari ci troviamo a fare un teatro con qualche migliaio di persone, e poi il giorno dopo fare un locale o un pub, insomma. E da un certo punto di vista è difficile, perché è difficile, nel senso devi veramente non devi fare le differenze fra queste due cose, devi sempre essere veramente al 100%, sia che sei davanti a 3.000 persone sia che sei un pub. E noi ci siamo costruiti abbiamo creato una bella atmosfera in entrambi i casi, credo, e questo credo che ce l'hanno dato atto, insomma, le persone ci hanno detto che è una forza, insomma, questa cosa. Allora, noi adesso andiamo a ascoltarci il clima, anche se non è un live, ma è dal CD, però il clima di questo grande concerto, che poi entreremo ancora su un paio di piccoli particolari. Ci ascoltiamo, Daniele, La birra e la musica, sì. Una grande ballata da moltissima allegria. Girato l'Italia intera e siamo venuti qua. Abbiamo girato l'Italia intera e siamo venuti qua. Dallo sperone oltre frontiera l'Italia intera e siamo venuti qua. Dallo sperone oltre frontiera l'Italia intera e siamo venuti qua. Siamo venuti per la musica, la birra e la musica e la ragazza bionda con il vestito blu. Siamo venuti per la musica, la birra e la musica e la ragazza bionda con il vestito blu. Siamo venuti per la musica, la birra e la musica e la ragazza bionda con il vestito blu, siamo venuti per la musica. La birra e la musica. Lasciate pensieri a casa, al lavoro a casa e siamo venuti qua. Abbiamo lasciato pensieri a casa, al lavoro a casa e siamo venuti qua. E abbiamo portato soltanto il cuore, la testa a casa e siamo venuti qua. Abbiamo portato soltanto il cuore, la testa a casa e siamo venuti qua. Siamo venuti per la musica, la birra e la musica e la ragazza bionda con il vestito blu. Siamo venuti per la musica, la birra e la musica e la ragazza bionda con il vestito blu. Siamo venuti per la musica, la birra e la musica e la ragazza bionda con il vestito blu. Siamo venuti per la musica. Hey. Siamo venuti. venuti per la musica, la birra e la musica, e la ragazza bionda con il vestito blu. Siamo venuti per la musica, la birra e la musica, e la ragazza bionda con il vestito blu. Siamo venuti per la musica, la birra e la musica, e la ragazza bionda con il vestito blu. Siamo venuti per la musica, la birra e la musica. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. La birra e la musica, Daniele, quindi vuol dire suonare insieme, divertirsi insieme, suonare con la S maiuscola. Assolutamente sì, e poi vuol dire che ci sono delle cose semplici, delle cose che non costano niente, che ci hanno regalato e che sono intorno a noi, e che sono quelle che magari ti possono veramente dare la serenità, la felicità, quella che molti inseguono, e che spesso, e che per averla non bisogna per forza acquistare qualcosa, volevano farcelo credere, no? Che per essere felici di comprare, non è così. Ci sono delle cose intorno a noi che sono semplici, ma sono quelle lì che ti danno la serenità vera. Fra i tanti viaggi, tu sei stato anche molti anni fa a Los Angeles, però ti sei stancato della città e sei andato via subito, o quasi. No, non è che mi sono stancato, guarda, io sono un grande appassionato di cinema e dell'atmosfera anche degli Stati Uniti, per quello ho deciso di fare questo viaggio, di stare un po' di tempo là. Sì, e no, mi è piaciuta molto, Poi anche lì, insomma, la voglia di tornare a casa era forte. Devo dire una cosa, che molti vivono con la metropoli, Los Angeles è una città particolare, ma questa cosa mi è capitata anche in altre grandi città. La vita della metropoli, si parla della vita della provincia, e dicono, ma però sai, io vivo in una grande città, in realtà fai comunque la vita di provincia che nella grande metropoli, perché io andavo nello stesso bar, negli stessi ristoranti, incontravo le persone, parlavo alle persone che rincontravo per strada, e mi sembrava impossibile, no? In una grande città come, certo, Los Angeles. Pur Los Angeles offre tantissime cose, se vai da locali, poi per i musicisti, insomma, ci sono tanti anche negozi di strumenti musicali, tanti locali dove suonano, questa è una cosa importante, però la vita è quella che fai anche in provincia. Anche per me che vivo a Piacenza, insomma, andare a Milano ci vuole neanche un'ora, ci vogliono 45 minuti, e lì da un certo punto di vista spostarsi da un posto all'altro magari ci vuole un'oretta di impatto. Quindi che cosa cambia in realtà? È solo che chiamano i posti si chiamano tutti con lo stesso nome della stessa città. Quindi credo che spesso, insomma, questa illusione, insomma, della metropoli fa un po' parte di noi, insomma. In realtà la vita di provincia la si fa anche nelle città più grandi, insomma. Chiaro. Ecco, a proposito di la birra e la musica, Federica, sempre qui della provincia di Padova, mi scrive: versione allegra somigliante a una ballata d'altri tempi. Beh, c'è qualcosa di altro, c'è molto del popolare, c'è molto anche della tradizione, mi piace prendere dalla tradizione. Credo che noi abbiamo una storia e una valigia di storie, di storia e di tradizione dalla quale possiamo cogliere molto e dalla quale possiamo veramente iniziare per costruire il futuro, insomma. Anzi, credo sia fondamentale tenerla come riferimento, quella è la nostra storia. Bene, ringraziamo anche Federica. Maurizio? Sì, non volevo solo dire, tu giustamente, Daniele, poi prima di sentire il pezzo, hai detto che questo nuovo album ha tante frecce, cioè ti sei allargato, ha preso spunto da tanti riferimenti musicali, sì. E questo è importante, secondo me. Sì, perché mi piace far capire che il folk ha veramente delle sfaccettature. Tante sfaccettature. Tantissimi colori, tantissime sfumature. Perché tante quante probabilmente sono le terre che compongono il nostro pianeta, nel senso che veramente sono quelle diversità. Molti parlano delle diversità e hanno paura delle diversità. No, le diversità uniscono le persone, le diversità sono un potenziale. In Italia abbiamo tante diversità che qualcuno vuole farci credere che ci dovessero dividere, che ci dovessero allontanare. No, in realtà ci uniscono, sono la nostra ricchezza, il nostro potenziale, quindi vanno valorizzate. Senti Daniele, come si vive questo mega concerto che sei riuscito a fare nella tua città? Bisogna stare attento a viverlo, perché è un'esperienza talmente, cioè, tocchi veramente, come si dice, il cielo, insomma, con un dito e non solo, lo tocchi anche col cuore, perché fa impressioni, insomma, vedere 3.000 persone davanti che cantano con te, ballano con te, vivono quella serata con te. E come ti dicevo, è uno di quei momenti dove ti passa davanti un po' il film di quello che ti è successo, ti passa davanti le cose belle, le cose che i sacrifici, e dici valeva la pena, dici passa, è come dare un colpo di spugna sulla stanchezza, sui sacrifici, cioè lì ti è come se ti ripagasse di tutto, ed è una sensazione magica, una sensazione bellissima. Ecco, a proposito di sensazione, di quello che può avere provato Daniele lì dal palco, vi consiglio di andare su YouTube, cercare su Daniele Ronda, lì ci sono, c'è la sirena del Po, mi sembra. Il video ufficiale è proprio stato tratto dal Palabanca, perché quella sera abbiamo fatto una cosa molto, molto particolare, che è questo, abbiamo preparato via internet una coreografia del pezzo della sirena del Po e ci siamo detti che l'avremmo fatto tutti quella sera lì, ha un nome proprio specifico questa cosa, e io non credevo che in così tanti avrebbero aderito, ma quella sera lì la coreografia la facevano praticamente tutti nel pubblico, la facevano in tantissimi, e quindi dal video si vede, è una cosa molto bella, è molto interessante, Flash Mob si chiama, è una cosa molto interessante e molto bella, siamo divertiti molto. Voglio fare una parentesi, sì, dedicato sempre a questo concerto, perché dal punto di vista umano abbiamo scoperto che veramente dai anche tantissimo. Sul palco del Palabianca c'erano 50 disabili dell'Asofa, giusto? Sì, bravissimo. E poi dei ragazzi under 20, cioè adesso magari Daniele ci spiega un po'. Sì, ti spiego queste due cose, ci tengo molto, perché allora innanzitutto dei ragazzi under 20 che cui parli sono l'orchestra d'archi di cui ti parlavo, era praticamente interamente formata da ragazzi non ancora maggiorenni praticamente, e lì è stata una scelta, è stata magari un po' più dura da preparare, ma ne valse la pena, volevo dare un segnale di che c'è bisogno di dare delle opportunità, c'è bisogno di credere nel futuro, e c'è bisogno di credere anche nella generazione che il futuro lo dovrà affrontare adesso, quindi inizia a affrontarlo adesso. E io ovviamente non sono un politico, per fortuna, e quindi il segnale che posso fare è farlo dal palcoscenico, certo, per capire che io la mia parte sono disposto a costruirla, insomma, io sono disposto a lavorarci. E mi sembra, è un segnale che la gente ha apprezzato molto, certo, perché capite che ci sta dietro un lavoro grande, insomma, prendere dei ragazzi 15-16 anni e farli suonare su un palco con 3.000 persone davanti non è la stessa cosa che prendere dei professionisti che magari di grande esperienza, ai quali dai le parti, se le studiano, che ci siamo, lì c'è una preparazione diversa, anche importante dal punto di vista umano, che io infatti sono contento di aver fatto. Ne ho voluto invece proprio parlare, perché ho visto anche tutto il tempo che hai dedicato a questi ragazzi, sia i ragazzi under 20 che a questi ragazzi disabili. Guarda, i ragazzi disabili mi hanno fatto loro un regalo enorme, perché è una cosa che con loro abbiamo preparato veramente per mesi prima, perché non è semplice, sono delle dinamiche particolari, però mi hanno fatto capire che dentro, cioè, l'essere umano può avere una forza che non ce ne rendiamo conto, sono veramente loro, sono il monumento alla forza che le persone possono avere dentro, un monumento vivente, perché mi hanno fatto capire che sì, dalla vita puoi strappare delle sensazioni bellissime, nonostante queste persone vivano veramente dei disagi enormi. Io, stando con loro per ore e ore in questi mesi, pensa, addirittura ci sono dei momenti dove ti fanno credere, dove ti riescono a farti credere che quella lì sia una situazione normale, dove riescono a farti credere di non avere disagio. Poi ovviamente viene l'ora di tornare a casa e ti accorgi che loro vanno a casa ancora, si portano dietro tutto quel carico lì di problemi, e capisci che questi problemi sono grandi, ma capisci che anche la loro forza e la loro volontà e l'amore che hanno per la vita è grande, insomma. Adesso Daniele, sentiamo un altro pezzo in dialetto, non so la pronuncia mia sarà assolutamente non buona, però Brassam Fort, va bene? Brassam Fort, benissimo, non è che ci piace il tiro. No, no, assolutamente, sono di palo. Adesso la sentiamo e poi ne parliamo, ok? Va bene. La tua è russa, tra il Dennadel e una candela che se riflesse col bicel. Io una pena sta che la curai in tutto il paese, appena il tempo da surce al telegiurne. Gli han dit che inco finisce al mondo, vieni anche al dice, ma in stavolta succeda da buon. E se che proprio da stupetus son contento che finisce a sé appena mette. Brassam Fort, ferma il sangue al che. Brassam Fort, a sedespe anche a me. Brassam Fort, che se la vita le vina. Brassam Fort, che come bianca furtoina. Brassam Fort, lascia che il telefono al sona. Brassam Fort, e che la rosta al sabrusa. Parche le zene combatti anche la morte, rida mia par piacere, Brassam Fort. E sarà stelsi giù, dal se strachè, e innanza sto circo, paradì, ma chi la fa fè? Da regale al cielo l'amore e anche al me, a chi le niambonda da guardare. Ma te Brassam Fort, ferma il sangue al che. Brassam Fort, a sedespe anche a me. Brassam Fort, che se la vita le vina. Brassam Fort, caguma bianca furtoina. Brassam Fort, ferma il sangue al che. Brassam Fort, a sedespe anche a me. Brassam Fort, che se la vita le vina. Brassam Fort, caguma bianca furtoina. Che le zè combatti anche la morte, grida mia par piacere, Brassam Fort. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, Daniele, ci senti? Sì. È una bella ballad questa qua, secondo sì. me, una ballad. Ci spieghi un momento il testo così la gente può capire? Guarda, si è parlato tanto di fine del mondo, no? Che dovesse arrivare questa fine del mondo. Molti di noi, io stesso, insomma, non ci ho creduto, insomma, ci abbiamo addirittura scherzato sì, sui Maya, sì, esatto. Però ci sono state un paio di sere dove ci ho messo un po' di più a addormentarmi, perché ero convinto, ho provato a credere che fosse vero. E ho pensato che poi in fondo quello che conta veramente, che sarebbe contato davvero non sarebbe stato come sarebbe accaduto, come se ci avrebbe spaventato, se ci saremmo accorti, quanto ci avrebbe ben piegato, insomma, come sarebbe veramente successo tutto questo, come sarebbe accaduto tutto questo, ma quello che contava veramente, manco più della paura, insomma, era trovarsi, sarebbe stato in quel momento essere quelle persone a cui tengo, a cui amo, a cui voglio bene. Certo. E questa canzone parla proprio di queste due persone che si trovano al momento vero della fine del mondo, che dicono ci siamo, insomma, e dicono che alla fine non si possono lamentare perché hanno avuto l'amore, hanno conosciuto cosa voleva dire l'amore, soprattutto l'uno dell'altro, e quindi alla fine dicono abbracciami forte. E lasciamo che accada, comunque siamo stati anche fortunati. Certo. Una cosa che volevo chiederti è questa: parlavamo di Los Angeles, c'è una cosa molto interessante. L'artista Mary Shelley ti ha fatto la copertina, ti ha dato nel punto. Chi è questa artista americana? Come l'hai conosciuta? Guarda, tu hai scritto 6.000 km di distanza, tu hai parlato. Sì, minimo, sì. E ero su internet e guardo un'immagine, vedo un'immagine di quattro cani che ululavano al cielo. E poi per come era rappresentata il contesto e tutto, mi sembrava che in qualche modo rappresentasse il nostro, che descrivesse un po' il nostro, che descrivesse, insomma, che raffigurasse il nostro stato di quel momento. E guardo la foto successiva ed era una sirena, che è quella che poi in copertina, quindi certo. Ho detto devo conoscere, insomma, un po' di più di dell'operato di questo artista. E poi ho scoperto che molte sue opere, in maniera volontaria ma in maniera quasi magica, insomma, si rappresentavano, insomma, erano significative di alcune, corrispondevano quasi al significato di alcune canzoni, corrispondevano nel senso che lo rappresentavano da un punto di vista anche un po' di opera, d'arte, di scultura, e quindi in maniera e quindi abbiamo subito contattato e le ho chiesto se aveva voglia di fare questa cosa qua, di concedere l'immagine sulle opere, e lei subito mi ha detto di sì, anzi è stata molto molto contenta. Benissimo. In una recensione di Max, non mi ricordo a firma di chi, ha scritto: splendido in dialetto piacentino, credibile in italiano. Io non sono molto d'accordo su questa frase. Che dici, Daniele? No, ma guarda, io lo prendo come il complimento di questa cosa. Guarda, la scelta di fare delle cose sia in dialetto che in italiano è per me fondamentale, perché le considero proprio il dialetto una forma di comunicazione e l'italiano ovviamente è la nostra lingua. Però ci sono delle cose che io sento di dover dire in italiano e altre di dover dire in dialetto. Magari qualcuno può dire, il puritano del dialetto potrebbe ridire così, però alla fine, insomma, dice comunque anche nel male, dice una cosa positiva, cioè nel male, cioè dice comunque entrambe le cose sono positive. Guarda, per fortuna la critica, quella proprio giornalistica, per ora ci ha graziato, non solo, ci ha fatto anche dei grandi complimenti, quindi insomma ci sta. Certo. Ad esempio noi la Nevel Soul potevamo anche farla ascoltare come inizio in italiano, abbiamo preferito perché aveva un'emozione diversa, si sente cantare anche bene sia nell'uno e nell'altro, sono due versioni comunque entrambi apprezzabili, anche perché sono noi sono due cose diverse, esatto. Ma per me hanno per me dovevano esistere tutte e due, perché è stata lì la scelta di farle entrambe, quindi non davvero non mi pongo quel tipo di problema. Questo progetto è nato per seguire anche delle esigenze che inizialmente erano le mie e quelle di pochi che facevano parte del progetto, adesso sono le esigenze di tante persone, e quindi credo che andremo avanti così, sperando che cresca sempre più il numero delle persone che vogliono condividere questa cosa. Noi abbiamo avuto anche ospite poco tempo fa, che c'era Agostino e Maurizio, un'altra con la musica emergente, Giulia Daici, che ha presentato un intero CD completamente dedicato alla lingua friulana, ed è stato un CD che abbiamo trovato veramente molto molto bello. Daniele, quanto lavoro c'è dietro una canzone? Perché a volte sembra che sia abbastanza facile, si prende in mano una chitarra, si fa qualche nota, si compone qualche parola. In realtà, quanto lavoro c'è dietro una canzone? A volte, ti dirò, a volte lo è, può succedere che lo sia, ci sono dei casi in cui lo è, facile, è naturale più che facile, a volte c'è molto molto lavoro, ci sono delle cose, degli spunti che io tengo per mesi, mesi e mesi e che magari poi riaffronto veramente dopo perché arriva il momento di riaffrontarli, quindi poi io veramente curo tutto, insomma curo, vivo tutto della canzone, qualsiasi parte. E in questi due casi ho anche prodotto i dischi, quindi veramente le vivo veramente nota per nota, quindi c'è un grande lavoro che però non, ti ripeto, ci sono dei momenti dove non, il sacrificio non c'è, è cancellato, è ripagato, quindi va tutto alla grande. Una cosa che chiedo spesso ai musicisti che intervistiamo: i pezzi nuovi li provi suonandoli dal vivo a sentire l'umore della gente oppure no? Sì. Ecco, quello guarda, interessava. Gran parte di questo disco lo suonavamo dal vivo, ecco, prima che uscisse l'album. Per noi è un po' una cosa che sì, è un po' fuori schema, è un po' fuori logica, però per noi è una cosa importante, anche perché noi avevamo, suonando così tanto, volevamo avere una scaletta, insomma, ricca, una scaletta già strutturata, quindi avevamo anche questa necessità, ma è una cosa che mi piace fare, sì, suonarli anche prima dal vivo. Magari sono alcune cose, ovviamente, anche per tenere un po' di suspense, chiaro, quindi, sì. Insomma, le tengo lì. Certo, però, certo. Però molte cose le suono già dal vivo, prima, ancora prima che esca il disco, sì. Benissimo, allora, cosa dici a Daniele? Sentiamo un altro pezzo del disco, abbiamo scelto Alternati, e poi ne Alternati, parliamo. Sì. L'ho sentita dire che sei un fallito e che ce la caviamo bene da noi. Voglio che tu sappia che io non ci ho creduto e che io non ci crederò mai. E se io non ho l'età per capire che la colpa ce l'hai tu e ce l'ha lei, spero solamente di non sentir dire che gli errori sono stati miei. Ma c'è che mi va di vederti, ma non so più come dirtelo, che questa vita a weekend alternati io no, non la merito. Però mi va di vederti, ma non ho più voglia di dirtelo, che tutti quei sentimenti alternati io non li considero. L'amore vecchio non ha valore, se l'odio nuovo conta molto di più. Se questa è una guerra in cui si sparano offese, io non ci combatto più. Ma c'è che mi va di vederti, ma non so più come dirtelo, che questa vita weekend alternati io no, non la merito. Però mi va di vederti, ma non ho più voglia di dirtelo, che tutti quei sentimenti alternati io non li considero. servirebbe rispetto, un po' di rispetto, solo e soltanto rispetto. Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Caro Daniele, abbiamo scelto, perché abbiamo scelto Alternati? Perché a me piaceva questo inizio abbastanza interessante. Chitarra in primo piano appena affettato e la voce leggermente lontana. Poi gli strumenti si sono ritornati, sono venuti sempre più, hai allargato il raggio d'azione, ma questa chitarra per alcuni secondi in primo piano mi piaceva molto. Ti ringrazio, è un pezzo che, a cui sono legato in maniera particolare, un pezzo per varie ragioni e per varie ragioni ho deciso anche che partisse in quel modo lì, per varie ragioni ho deciso che avesse quell'essenzialità lì, insomma, all'inizio parla di quei bambini che vengono usati come armi nelle guerre, insomma, familiari fra due persone che decidono di trascorrere insieme la propria vita e poi cambiano idea, poi decidono di separarsi e quindi non sarebbe sarebbe anche legittimo, se non che usano appunto, come ti dicevo, come arma come i arma. Figli, e questo, esatto. È questo un problema grosso. Quanti concerti hai fatto dal debutto, dal primo lavoro, Daniele? Guarda, dall'uscita di Da Parte in Folk sì. A oggi abbiamo superato i 100 concerti, quindi in un anno più di 100 concerti. Sono tantissimi. Sono tanti, però ben vengono, insomma, e ne abbiamo già tanti, per esempio adesso suoneremo giovedì, suoneremo venerdì, se non sbaglio anche sabato, no, forse adesso, insomma, dovrei verificare, quindi anche d'inverno suoniamo tanto, d'estate, insomma, d'estate parte veramente la stagione piena, dove facciamo veramente, c'è un momento in cui suoneremo praticamente tutti i giorni, per fortuna, ma ben venga, alla grande, insomma, siamo degli zingari, ci mettiamo in macchina, viaggiamo e suoniamo. Certo, vi state vivendo un buon successo, tra l'altro, se non mi sbaglio, voi non avete appoggi da case discografiche o no. Da chissà chi, è proprio, tutto nasce in pratica da voi. Face to face, veramente, incontriamo le persone e costruiamo il rapporto, la comunicazione con loro. Bello sto faccia a faccia, è bello, è bellissimo, secondo me. È la cosa, l'essenzialità. Ci sono dei momenti in cui è porta fatica, perché certo, veramente chiaro. Vuol dire incontrare tutti, nel senso, però poi dà anche delle belle soddisfazioni e forma dei rapporti che poi è difficile buttarli giù, insomma. Io volevo, siamo alle battute finali, Daniele, parlare anche un attimo di altre due persone importanti per te, Danilo Sacco. Sì. E Davide, mi sfugge il nome, sì. Van der Sfross. Sì, sì. E, guarda, sono state due collaborazioni. Io credo nelle collaborazioni fatte per esigenze artistiche o umane, nel senso, non in quelle da management, diciamo, perché credo che sia giusto così, che bastano così, e che le collaborazioni, insomma, abbiano quello scopo, abbiano uno scopo di quel tipo lì. E con Davide nasce, sono un fan di Davide, nel senso che ho i suoi dischi, vado ai suoi concerti e siamo diventati amici, ho tradotto quasi per gioco un suo pezzo dal dialetto lagheco masco, insomma, dal suo dialetto all'italiano, e che da 40 passi è diventato 3 corsari. E lui non solo sentendola lo ha provato, insomma, che era già una buona cosa, ma in più l'ha voluta cantare con me, quindi è stata una soddisfazione enorme. Con Danilo invece nasce da un'esigenza umana, perché la canzone che abbiamo cantato insieme, Figli di Chernobyl, che è questa nel primo album, è l'inno, è la colonna sonora di un'associazione che si chiama Sole Terre Ollus, anzi vi invito ad andare a vedere il sito internet soleterre.org, che si occupa di quei bambini malati di cancro ricoverati all'ospedale di Kiev, pensa ancora dopo 25 anni causa del disastro nucleare di Chernobyl. a causa di questo disastro. Questi bambini non solo necessitano di tutte le cure mediche sulle terre che riesce a offrirgliele, ma anche di avere vicino le loro famiglie, che spesso sono famiglie povere, non potrebbero, dovrebbero magari lasciare le loro occupazioni, lasciare le loro case, trasferirsi a Kiev per stare vicino ai loro figli. Ed è una cosa fondamentale stare vicino ai loro figli, ed è una cosa fondamentale avere la, la loro famiglia vicino per questi bimbi. E sulle terre permette anche ai loro genitori, tramite case d'accoglienza, tramite appunto degli aiuti importanti, anche di luoghi dove potersi trasferire, dove poter alloggiare, insomma aiuta queste famiglie a stare vicino ai loro piccoli, ai loro bambini. Siamo andati a trovarli i primi di febbraio, siamo andati proprio a Kiev, questa missione umanitaria, e è stata un'esperienza grande, un'esperienza pesante, ma importante, credo, soprattutto per noi che siamo tornati a casa vedendo una realtà che significativa, perché anche queste persone hanno tanta forza dentro, soprattutto questi bambini. E i bambini, si dice che non abbiano colpe, ma spesso ne pagano. Purtroppo sì. E purtroppo è così, lì accade questo, insomma, e quindi per fortuna i modi per aiutarli possono esserci. Noi facciamo una piccola cosa, insomma, però unite tante piccole cose che possono fare molto. Questa associazione invece si dedica veramente la vita di tanti volontari, si dedica il tempo, le energie di tanti volontari, e io li ringrazio per questo. Se noi poi possiamo dare anche un contributo, ma è veramente poco rispetto a tutto quello che lì, insomma, c'è da fare, c'è da portare. E, però insomma, l'importante è essere presenti, andate, certo, a vedere, sì, certo, è già, certo, qualcosa, anche se comunque invitarlo, informarsi. Noi ringraziamo anche te di tenere vivo queste cose che poi magari nel tempo tendono un po'. Si tende un po' a non parlarne più, invece è una realtà che c'è, è viva ed è ancora importante. Sì. No, io la seguo ormai già appunto, come dicevo, dal primo disco, da prima detto, quindi è già più, sono già 2 anni, insomma, ma assolutamente la cosa va avanti, perché tengo molto a queste persone, lo reputo un progetto importante. Ce ne sono tanti progetti importanti, perché ovviamente io collaboro con loro, ci sarebbe veramente da collaborare con tantissime associazioni, però insomma sono cose, per fortuna ci sono queste associazioni, insomma, perché aiutano tanta gente che veramente ha bisogno, che veramente ha dei problemi grossi da risolvere, che veramente però ti può dar tanto, diciamo, poi loro ci stanno dando, a me hanno dato tanto, mi hanno dato tanta forza, perché mi hanno fatto capire quanta sia la voglia di vivere, insomma, l'amore per la vita e la forza d'animo, la forza di volontà che hanno dentro queste persone, questi bambini soprattutto. Daniele, chi volesse acquistare i tuoi CD? Lo trova, beh, ovviamente sui mercati digitali, come così si chiama, tipo iTunes, insomma, così, oppure in tutte le feltrinelle d'Italia, o anche nei migliori negozi di dischi, esatto. oppure ai nostri concerti, cioè, c'è sempre un fornitissimo banchetto del merchandising che ha anche, insomma, tutti i nostri dischi, i nostri lavori discografici, il nostro DVD, insomma, quindi lì trovate tutto, anche le informazioni. Se comunque andate sul nostro sito, magari danieleronda.it, lì trovate le date del tour, trovate tutte le informazioni. Lo aggiorniamo più che quotidianamente, perché credo molto, come lo considero un mezzo importante per arrivare alle persone in maniera diretta, immediata, per parlare alle persone. E anche abbiamo anche una pagina Facebook ufficiale, c'è la mia pagina Facebook, c'è la pagina della community, quindi dal sito diciamo che avete tutti i riferimenti, da Twitter, YouTube, Facebook, appunto, tutto quanto. Quindi danieleronda.it è il sito internet. La miglior cosa, Daniele Ronda, è sentire e vedere i concerti di Daniele Ronda, cosa dici? Assolutamente, tutti invitati, sarebbe un grande onore per me averli lì. Concludiamo, Daniele, con questo pezzo, Si strappano le nuvole. Sì. 10 secondi per spiegarlo e poi ci salutiamo. Guarda, è diventato, mi hanno chiesto di scrivere un inno, noi abbiamo una grande squadra di pallavolo a Piacenza che è il Copra Volley, mi hanno chiesto di scrivere un inno, io avrei potuto scrivere un pezzo che diceva viva il Copra, viva la pallavolo, insomma, forza, forza ragazzi, in realtà ho voluto parlare delle debolezze, ma dell'importanza di mettercela vera, di faticare, di impegnarsi al massimo e di viverle veramente le partite, che non sono solo quelle sul campo, anche quelle fuori e anche quelle, insomma, che ci capitano tutti i giorni, e che lì è già un inizio di una vittoria, insomma. Daniele, noi dobbiamo salutarci, noi ti ringraziamo di cuore. Grazie, veramente di cuore, perché ci tenevamo moltissimo di averti come ospite. Speriamo un giorno di averti qui in studio con un live. Lo spero, quando sono da quelle parti assolutamente molto volentieri, è stato un grande piacere, spero di sentirvi davvero molto presto, grazie a voi davvero. Grazie Daniele. Maurizio, noi ci salutiamo, ringraziamo Alberto anche di questo spazio, il nostro direttore artistico, tra l'altro ha organizzato lui questa serata, certo, con Daniele Ronda, quindi grazie Alberto, e noi ci sentiamo domani. Domani avremo prima Agostino, che ha un'intervista con il curatore del festival di Anna Capri dedicato a Bruno Lauzi, e poi ci sarà un live come sempre al mercoledì, il giorno fatidico del live, dalle ore 22 in poi. Contesta stavolta, come grazie, regista, grazie. E non soltanto regista. Grazie Maurizio, grazie veramente a tutti voi, e ci sentiamo domani sera. Ciao Maurizio. Certo. Ciao, grazie Gil, a tutti. Conta esser vinti o vincenti se non hai risparmiato sudore, se le scarpe hanno scelto una strada e il cuore ha scelto un colore. Il bianco più puro, il rosso più acceso, lo stesso colore del sangue che ho speso. Ma c'è un mare di mille occasioni, c'è un muro di mani che strappano le nuvole. Così si strappano le nuvole. E si strappano le nuvole. Che oltre a gloria, potere e denaro, oltre questo sentiero sommerso, per ogni volta che non ci ho creduto, per ogni volta che ho perso, c'è il fatto che spero, c'è l'amore vero, c'è un cielo che non resterà sempre nero, c'è un mare di mille occasioni, c'è un muro di mani che strappano le nuvole. Così si strappano le nuvole. E si strappano le nuvole. E strappano le nuvole. Così si strappano le nuvole. E si strappano le nuvole.